Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati con Respiro. In questa prima parte riascolteremo la puntata condotta da Laura Bettini, dedicata al sistema FE e ai supermercati sostenibili, andata in onda il 24 gennaio. Iniziamo il nuovo ciclo con un ospite in studio, un ospite che è stato recentemente premiato da Legambiente, premio Innovazione Tecnologica 2008, è Marino Piasentà di Sistema FE, buongiorno. Buongiorno. Marino, chiediamo subito a te di presentare che cos'è Sistema FE, cercando poi di far capire agli ascoltatori appunto che cosa rappresenta e che cosa può rappresentare per il futuro il vostro sistema. Allora, il sistema FE è un sistema integrato che si basa su un ambiente artificiale che abbiamo costruito e che è in grado di recuperare tutte le energie disperse normalmente nell'ambiente. Parte dal concetto che l'energia sulla Terra c'è, che non abbiamo più bisogno di caldaie, di bruciare petrolio o gas, ma dobbiamo semplicemente trasferire questa energia che è presente ovunque, nell'acqua, nell'aria, nel sole soprattutto, e soprattutto viene raccolta nell'acqua in maniera, con dei numeri che per noi uomini sarebbero incomprensibili, troppo grandi, enormi. Questa energia c'è, noi dobbiamo semplicemente raccoglierla e trasferirla negli ambienti che ci interessano, dove dobbiamo vivere, riscaldare l'ambiente piuttosto che refrigerarlo, piuttosto che tutto quanto riguarda l'andamento termico della nostra vita, anche un frigorifero lo è. Questo come concetto di base, no? Dal quale voi siete partiti per poi sviluppare questo sistema che è stato messo in pratica, questo l'ha detto subito. È stato messo in pratica, sì, abbiamo fatto una sessantina di impianti con caratteristiche diverse, perché questo ambiente artificiale si è prestato soprattutto nel settore dei supermercati, della grande distribuzione, nella catena del freddo, a salvare, tra virgolette, da eccessi di calore che si possono produrre in un'estate come quella del 2004, per esempio, e che probabilmente succederà ancora anche quest'estate, inverno freddo, estate calda, la butto lì. Vediamo se la previsione poi dopo sarà corretta. Lo diceva, ma ti richiamiamo. È solo perché lo diceva il nonno. Vabbè, la saggezza popolare vale sempre. Diamo un'idea di come funziona questo sistema ai nostri ascoltatori. Allora, è un sistema di condizionamento normalissimo, in pompa di calore, che utilizza soprattutto utilizza l'acqua come veicolo di smaltimento del calore o del freddo e viene integrato con pannelli solari oppure soprattutto col calore di processo. Nei supermercati abbiamo i frigoriferi, fanno tanto caldo, tanto freddo, essendoci una forte presenza del freddo abbiamo fatto molti supermercati che riscaldano gratuitamente perché recuperano il calore dei frigoriferi, viene integrato, stoccato, tradotto per l'ambiente interno dal nostro sistema e ributtato in ambiente, rimasticato e ributtato in ambiente alla temperatura voluta. È interessante perché non è un risparmio energetico, è proprio uno staccarsi da tutto quanto è stato seguito prima e seguire una nuova strada che parte dai nuovi concetti teorici. Noi pensiamo l'energia c'è, pensiamo che non serva più fare combustioni chimiche, pensiamo che basta spostarla e allora tutto cambia, è un approccio completamente diverso. Quindi non generiamone dell'altra di energia, esatto. E poi usiamo quella che c'è. Esatto, e poi dopo 3 ore che io ho riscaldato il mio ambiente o l'ho raffreddato, il calore e il freddo prodotto ritorneranno nell'ambiente da cui sono venuti, ritorneremo al nostro pareggio originario, perché noi l'abbiamo solo spostata nella stanza che ci interessava. E poi c'è solo un muro che ci separa dall'ambiente esterno da cui l'abbiamo estratta e questa energia tornerà là. E questo vuol dire smettere di surriscaldare il pianeta. Significa avere un bilancio pari. Dunque, il premio voi l'avete vinto dopo l'applicazione di questo sistema in un supermercato. Quello è stato, sì, il vostro punto di riferimento. Oltre ai supermercati che tu hai già citato, dove possiamo applicare? Pensiamo anche alle abitazioni in un, esatto, futuro? L'ultima, prossimo, le cose che vicino. Stiamo facendo, è vicinissimo, è in funzione, stiamo già facendolo. Usiamo i pannelli solari per riscaldare il nostro ambiente artificiale destinato all'evaporazione. In questo modo recuperiamo il calore dei pannelli solari, ce lo giochiamo anche lì sul nostro sistema che si trita e si rimastica tutto quello che gli diamo e lo stiamo buttando in ambiente. Il sistema sta funzionando e sta funzionando con le temperature di quest'anno che sono calamitose, per cui è un sistema che a differenza di tutti gli altri pompa di calore precedentemente, che quello che faccio io si sapeva già teoricamente, c'erano dei precedenti che però smettevano di funzionare quando le temperature erano troppo rigide. Noi abbiamo superato questo problema, non ci interessa più la temperatura dell'aria esterna perché appunto tutto questo sistema integrato può funzionare con indipendentemente a meno 13, a meno 15, sempre dando prestazioni. Quindi vale per altissime. L'Italia del Sud, l'Italia del Nord e tutti gli altri paesi. Insomma, ci hanno chiamato in Germania a spiegare queste cose ai frigoristi tedeschi e probabilmente lo sviluppo sarà forse più al nord addirittura che non al sud, anche se perché più il al nord solare, che al sud? Beh, perché intanto ci sono sensibilità diverse. Cioè la Germania piuttosto che i paesi del nord Europa, e quello che fa anche l'America oggi con Obama, le linee guida che stanno prendendo sono molto ambientaliste, e anche se il mio discorso è tecnico, non è ambientalista ed economico, quello che faccio io deve convenire, punto. Non è, non sono uno che lo fa per politica, lo faccio perché deve convenire. Poi se il risultato è anche far bene all'ambiente, sono l'uomo più felice della terra, perché ho azzeccato una cosa che fa bene. Doppia. A tutti. Esatto. Due piccioni con una fava. Esatto. Al nord c'è questa sensibilità ambientale, c'è questa ricerca di svincolarsi dalla schiavitù del gas e del petrolio, che è molto sentita. Mentre in Italia, dove soprattutto a sud, col sole che c'è, si potrebbe fare veramente bene, se non col solare fotovoltaico, almeno col solare idrotermico, si può fare veramente bene e tutti avrebbero convenienza a farlo, perché oggi costa poco. Non è vero che il solare idrotermico costa poco, il fotovoltaico costa tanto, bisogna distinguere le due cose. Purtroppo però non c'è quella giusta dose. Il terreno non è ancora fertile, insomma, diciamo. In sì, questo... un po' di come intraprendenza, ecco. Consolaci un po' sull'Italia, vedi qualche movimento comunque di interesse anche in Italia, diciamo, generale? Allora, quello che è di consolante che vedo in Italia è che abbiamo l'eccellenza nel mio settore, nella parte meccanica. Sono industrie e uomini che lavorano essendo i primi al mondo. Tutti i prodotti che utilizzo io sono prodotti italiani. Usiamo valvole di espansione elettronica prodotta da un'azienda italiana. Idee italiane, ma soprattutto tecnologia meccanica, compressori di la Ferrari dei compressori. Ecco, io lo dico ai miei ragazzi, lo dico a tutti, noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove l'eccellenza è veramente eccellenza. Quelli bravi stanno al mondo e si giocano la partita col mondo. Visto che il tempo fugge, abbiamo ancora pochi minuti, volevo chiederti, Sistema Fe, ho letto sul vostro sito internet, tra l'altro www.sistemafe.it, per chi cercasse riferimenti specifiche sui progetti di cui abbiamo solo accennato, e anche numeri di telefono per contattarvi, certo. Perché c'è tutto. Leggevo sul sito che si tratta di un gruppo di aziende che lavorano, sì, insieme, non infatti. È una azienda soltanto, esatto. Quindi è un progetto portato avanti da tanti. Abbiamo lavorato con l'ingegner Caffaro del Politecnico di Torino, l'invenzione è mia proprio, l'invenzione originaria e tutta la fatica iniziale spinta. Sì, è stata durissima, è stato difficilissimo perché appunto viviamo in un paese che non accetta quelli che lavorano, che inventano e fanno cose. Perché altro che cambiano. Anche. Se si lavora nello standard va bene. Esatto. Invece poi ho incontrato appunto l'ingegner Caffaro del Politecnico di Torino, la Refcomp di Lonigo con Candio, che è un grandissimo uomo, e lì tecnologie con adesso parlo da meccanico, mi perdono. Hanno alesaggi da 4 millesimi di millimetro su tutti i pezzi che escono. È la Ferrari dei compressori, c'è la stessa azienda in Cina, ma il cuore non lo riescono a fare, lo sappiamo fare solo noi. Grazie mille a Marino Piacentà, nostro ospite in questa prima puntata del nuovo ciclo di Respiro, e a risentirci e a ritrovarci presto. A piacere mio, arrivederci. Insomma, abbiamo anticipato il tema supermercati sostenibili poco fa. Uno è stato aperto da SMA a Botticino, provincia di Brescia. Non c'è il sistema FE per il recupero del calore, anche se contatti di collaborazione tra SMA e sistema FE ci sono stati, ma sono stati inseriti in questo supermercato tanti accorgimenti, di cui ci parla Carlo Delmenico, direttore responsabilità sociale d'impresa di SMA. La novità di Botticino è quello di aver cercato di dare risposte a quattro grandi tematiche che sono una tematica che riguarda l'energia, per cui i consumi o quanto un supermercato può fare per ridurre i consumi, il proprio impatto dal punto di vista energetico. Un secondo cantiere che riguarda il riciclabile, per cui l'uso di materiale riciclato per la realizzazione del punto di vendita e il circuito che il punto di vendita mette in piedi per riutilizzare i propri rifiuti. Un terzo cantiere che è quello dell'offerta, per cui quali sono delle proposte dal punto di vista di prodotti che il cliente può trovare con particolare sensibilità agli impatti di carattere ambientale, e un quarto cantiere che invece è il rapporto col territorio, per cui le attività di carattere sociali che sono legate alle ONLUS del territorio. Facciamo qualche esempio di quello che riguarda, intanto per far capire, il supermercato in se stesso nel momento in cui un cliente entra. Che cosa vede di diverso dal solito? Beh, la prima cosa che incontra il cliente quando arriva all'interno del parcheggio, per esempio, è la presenza di un'illuminazione che è autonoma perché è fatta con il fotovoltaico, per cui tutta l'illuminazione del parcheggio è realizzata in maniera autonoma. Il secondo elemento strutturale che incontra subito sono i carrelli di plastica, per cui nel momento in cui va a sganciare il carrello dalla capannina si trova un carrello estremamente leggero, realizzato con 4500 tappi di plastica, o in alternativa un cestino, anche quello in plastica riciclata. Nell'entrare all'interno del punto di vendita trova una serie di comunicazioni che naturalmente esplicitano un po' i concetti fondamentali, e trova un conto alla rovescia che sostanzialmente dice quanti giorni mancano all'attivazione del grande impianto fotovoltaico che verrà messo sul tetto. Poi si entra nel punto di vendita e nel percorso di acquisto troverà delle segnalazioni relativamente a quelli che sono i prodotti che noi abbiamo definito come equattenti, per cui prodotti biologici, prodotti ecosolidali, prodotti a chilometro zero e prodotti sfusi o prodotti con ricariche. Per cui all'interno del suo percorso di spesa avrà questi accenti che più volte gli ricorderanno la possibilità di fare degli acquisti che siano, tra virgolette, più equattenti. Ben ritrovati con Respiro. In questa seconda parte Lara Vecchio ci parlerà di una palazzina di Firenze costruita interamente in legno. Nuovi materiali, trattamenti, architettura sostenibile, città del futuro. L'ambiente e la sostenibilità sono stati assoluti protagonisti della seconda edizione di Made Expo, la fiera di Milano, architettura, design ed edilizia. Tra le tante iniziative, grande attenzione è stata dedicata proprio al legno, agli aspetti della sua lavorazione e alle sue molteplici possibili applicazioni. È stato presentato, per esempio, un progetto di Casa SPA, la società partecipata dai 33 comuni dell'area fiorentina, per dare attuazione alle politiche di edilizia sostenibile della regione toscana. Ci racconta di cosa si tratta Vincenzo Esposito, direttore generale di Casa SPA. Firenze, primo condominio a 6 piani con struttura interamente in legno. Innanzitutto vogliamo spiegare che cosa si intende per struttura interamente in legno, quali sono le parti interessate e qual è l'innovazione. L'innovazione sta nel fatto che su un programma per alloggi a canone sociale, pensato originariamente con una struttura tradizionale in calcestruzzo, abbiamo pensato di sperimentare il sistema costruttivo in legno a pannelli strutturali, e quindi sia la struttura portante che buona parte dei tamponamenti saranno in legno. E quindi la novità rispetto al passato qual è? In Italia è la prima volta, no? Non è mai stata realizzata una costruzione del genere? La novità credo che sia molto importante, perché Firenze, come gran parte dell'Italia, è zona sismica, quindi noi sperimentiamo la realizzazione di queste strutture che sono state già testate in laboratorio, ma non su un programma vero, su un'altezza notevole, 6 piani. Esiste un condominio a Londra alto 6 piani, ma Londra notoriamente non è area sismica. Tra l'altro il sistema verrà testato non sul sisma di Firenze, quindi sullo storico degli avvenimenti che sono stati a Firenze, ma sul sisma di Tolmezzo, che è stato molto più distruttivo. Quindi, tra l'altro, le norme tecniche per calcolare queste strutture, diciamo così, ancora non sono certificate dal Ministero, quindi il nostro programma avrà anche questa caratteristica sperimentale di affiancare il lavoro dei tecnici del Ministero per certificare le norme tecniche con cui verranno poi codificate le modalità di calcolo di queste strutture, ripeto, per edifici alti e in zona sismica. Quindi lo possiamo definire un progetto pilota nel suo genere? Sì, assolutamente. Direi che del resto noi siamo una società di capitali, ma i nostri soci sono i comuni, quindi possiamo dire che siamo una società pubblica e credo che sia anche dovere del pubblico, naturalmente con tutte le garanzie, però sperimentare strade nuove e quindi porsi un passo più avanti rispetto all'innovazione. In che termini interviene il pubblico a livello di finanziamenti? È totalmente finanziato dal pubblico perché il 50% dell'intervento è del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il 50% è del Comune di Firenze e di Casa Sva, che essendo una società anche del Comune di Firenze parteciperà direttamente con proprie risorse. Per una struttura del genere quanto si guadagna in termini di tempi di realizzazione? Questo è un dato molto interessante perché noi confidiamo di abbattere del 50% i tempi di realizzazione, quindi se ci vogliono 24-18 mesi per realizzare un edificio con queste caratteristiche in tradizionale, diciamo così, con questa struttura dovremmo letteralmente dimezzare i tempi, e questo è molto importante perché trattandosi di alloggi sociali, come dire, anticipiamo molto l'entrata in funzione e quindi alla fruizione di chi ne ha necessità di questi alloggi. Mi spiega anche quali sono le caratteristiche a livello di impatto ambientale? Allora, noi riteniamo che questo aspetto sia, se possibile, prevalente anche rispetto agli altri che abbiamo detto prima. Noi già oggi realizziamo nella nostra regione tipologie abitative equiparabili a una classe B trattino classe A di casa clima Bolzano. Naturalmente in Toscana e a Firenze non c'è una normativa cogente in questa direzione, quindi dobbiamo importare o comunque assimilare una normativa laddove esiste e dove è cogente, come appunto casa clima. Rispetto quindi a tenere questa tendenza, noi vorremmo poi certificare il fabbricato e siamo confidenti di stare in classe A, c'è un elemento aggiunto che è la salubrità degli ambienti, che è dato dall'uso strutturale ma anche per gran parte dei tamponamenti del legno, e dovrebbe assicurare un benessere abitativo di qualità superiore alle case tradizionali in calcestruzzo, in mattoni eccetera. Il progetto è stato patrocinato dal gruppo costruttori di Assolegno. Si tratta infatti di una occasione unica per sperimentare, ma soprattutto per colmare un vuoto normativo in materia. Sentiamo Stefano Mattarei, consigliere incaricato di Assolegno. Chissà quanti progetti passano sui vostri tavoli. E perché Assolegno ha deciso di patrocinare questa iniziativa piuttosto di altre? Qual è il valore aggiunto? Questa iniziativa è un'iniziativa estremamente interessante per l'elevazione. Fino ad oggi siamo abituati a vedere costruzioni in legno che si limitano a riferirsi a costruzioni monofamiliari, ad abitazioni private e eventualmente a piccole scuole e costruzioni, diciamo, di dimensioni non notevoli. Per la prima volta in Italia si ha un esempio reale di una costruzione a 6 piani, per cui la tecnologia in legno può anche andare in altezza, che in realtà è sempre stato un'attività che era di appannaggio di altri gruppi, come ovviamente gli amici dell'acciaio e gli amici del cemento. Anche oggi noi del legno possiamo dire di poter fare costruzioni in altezza, per cui è per questo che Assolegno ha deciso di patrocinare questa costruzione, perché è la prima che in realtà supera un determinato numero di piani. Esiste una casa fatta a 7 piani, è stata testata sulla piattaforma di Kobe per rilevarne l'efficienza dal punto di vista sismico, ed è una prova eseguita dall'IVALSA, che è una branca del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che ha, diciamo, creato questo prototipo a 7 piani, mentre questo è proprio una reale costruzione. Questo potrebbe essere un precedente importante per dare il via a una divulgazione maggiore di questo nuovo modo di costruire? Diciamo che il pubblico fortunatamente si sta rivolgendo ad aziende associate ad Assolegno e che, diciamo, danno questa garanzia di costruzione per realizzare molti edifici pubblici, per cui oggi troviamo bandi di concorso pubblici che utilizzano il legno per realizzare scuole, comuni, un sacco di costruzioni, diciamo, a scopo sociale, e che fanno solo bene, diciamo, le costruzioni in legno, perché educano il cittadino a capire che effettivamente tutte quelle paure ancestrali che si hanno sul legno, ad esempio il fatto che sia un materiale che bruci, piuttosto che sia un materiale che non duri nel tempo, che sono deperibile, che sono praticamente solo delle paure che nascono dalla cultura dell'utilizzo degli altri materiali costruttivi nell'ultimo secolo. Ma se andiamo indietro nel tempo, vediamo che le costruzioni in legno che resistono oggi da 400-500 anni sono notevoli, perché tetti e solai di costruzioni di palazzi antichi sono tutti in legno. Ecco, il legno come interviene ad esempio nel risparmio energetico? Con quali caratteristiche? Il legno è un materiale che notoriamente è un cattivo conduttore di calore, per cui è un involucro in legno che aiuta a non disperdere l'energia, in questo caso, diciamo, calorica, che si crea all'interno della casa. Per cui se ho una scatola che non mi permette di disperdere calore, è ovvio che per riscaldarla mi serve meno energia e dovrò, diciamo, integrare questa energia molto meno velocemente che in altre strutture. Si chiude qui questa puntata di Respiro. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, respiro@radio24.it. Buon proseguimento d'ascolto, sempre sulle nostre frequenze.